Soffermiamoci sulla nascita della Chiesa. Che cosa si intende per Chiesa? Che cosa dovrebbe essere? La sua essenza viene sempre definita come apostolica e cattolica. Che cosa significa? L'apostolicità definisce la trasversalità orizzontale della Chiesa rispetto a tutte le epoche storiche. La sua origine storica si riconnette inizialmente agli 11 uomini prescelti da Gesù. 11 erano quelli rimasti, più Mattia, scelto successivamente. Non è una qualsivoglia mitologia, una ideologia priva di fondamento, ma è davvero ancorata nell'evento storico di Gesù Cristo ed è la sua origine apostolica a conferire alla Chiesa sempre nuovo slancio. Nell'apostolicità della Chiesa si esprime non solo la fedeltà alla testimonianza, alla fede degli apostoli, ma anche il suo profilo sacramentale. La Chiesa non può quindi essere ripensata prescindendo dalle sue radici storiche, ma è caratterizzata da un solido legame, da una continuità permanente con le sue origini. Il sacramento dell'ordine esprime questo legame con ciò che non è stato inventato e insieme rimanda allo Spirito Santo quale garante della continuità. E la cattolicità? Cattolico significa letteralmente che abbraccia la totalità. Comporta quindi un riferimento universalistico. Esprime l'appartenenza della Chiesa al mondo intero, a tutte le culture e a tutte le epoche. È di estrema importanza perché la Chiesa non può ridursi all'angustia di una Chiesa nazionale. La sua funzione consiste nel superamento dei confini, deve impedire il trionfo di Babilonia, l'asservimento dell'umanità alla confusione e delle contrapposizioni. Deve invece ricondurre a Dio nella pienezza delle molteplici lingue. Tutta la ricchezza della natura umana e incarnare nell'umanità anche la forza della riconciliazione. Il pensiero cattolico ha principio e caratteristiche. È un modo molto particolare di guardare ad eventi, persone, avvenimenti che costellano la scena del mondo. Si può in qualche modo definire questo pensiero? È difficile a dirsi. La cattolicità si nutre della totalità della storia della fede, ma si è particolarmente dispiegata nella sua forma specifica nella Chiesa d'Occidente. Da questo punto di vista, molto di quello che noi oggi definiamo come pensiero cattolico non ha carattere sovratemporale e immutabile. Con l'avvento di nuovi popoli e di nuove epoche storiche può subire modificazioni, approfondirsi e rinnovarsi. Mi pare che i protestanti tendano a cristallizzare la fede in rigide contrapposizioni frontali, mentre tra i cattolici domini la tendenza a ricercare la sintesi, il contemperare aspetti diversi. Ecco quindi che le scritture non escludono la tradizione, né l'autorità, la libertà o la fede, le opere. Qual è la differenza specifica tra cattolicesimo e protestantesimo? Questa questione non va eccessivamente semplificata, non è riducibile a un unico elemento. Per quanto il rigore delle alternative tra possibilità contrapposte e reciprocamente escludenti sia profondamente radicato nel protestantesimo, in ogni caso il pensiero luterano ha sicuramente sottolineato il principio del solus Christus, solo Cristo, mentre il cattolicesimo è stato piuttosto caratterizzato da una volontà di sintesi. Ci si dovrebbe però guardare da formulazioni troppo schematiche e delle differenze, soprattutto perché il protestantesimo presenta una molteplicità di varianti e anche la Chiesa cattolica, a sua volta, conosce una ricchezza di forme, senza contare che le possibilità di estrinsecazione storica non ci sono ancora esaurite né per l'una né per l'altra. Certo è che la Chiesa cattolica ha sempre respinto certe formule escludenti, come ad esempio l'esclusività della scrittura. La Chiesa cattolica crede nell'esistenza di un nesso inscindibile tra scrittura e tradizione vivente, perché la tradizione è il soggetto portante della scrittura e in essa si esprime anche il soggetto deputato a interpretare la scrittura stessa, la Chiesa. Un'ulteriore differenza consiste nella validità solo parziale accordata al principio della sola fides. Questo perché la fede è inizialmente l'unica porta attraverso cui può passare la grazia, ma poi, come diceva la lettera ai Galati, questa fede si fa operativa solo grazie alla carità. La forza giustificativa dell'esistenza cristiana risiede da questo punto di vista nella fusione di fede e amore. Anche qui va perciò infranto il principio della esclusività di uno dei poli. Quindi, questa tendenziale apertura che rigetta come unilaterale gli esclusivismi, di cui non va del resto disconosciuta la grandezza, è una delle principali caratteristiche di questa diversità.